Mantenuta la sua promessa. Il 24 agosto venne durante il giorno al freddo santo. Mi venne sorridente incontro e tese le mani. Io, Alfredo, sei proprio tu? Lui, la mia promessa. Io, dove sei? Lui, nella visione. Poi mi fece un cenno di saluto e disparve. 27. Nota. In proposito il parroco Sebastiano Wieser scrive: Alfredo così santo fu una personalità molto altolocata. Questa apparizione è una dimostrazione ed una conferma contro coloro che dicono: non è possibile che i morti tornino indietro. La cosa mi ha fatto molto piacere, ma mi ha anche molto impressionato perché lo scorso anno, su per giù in questo tempo, mentre parlavamo di queste cose, mi ha promesso sorridendo di venire, se gli era possibile. Era in tutto come da vivo. Io avrei dovuto oppormi ad una cosa del genere, ma con gli altri finora, 11 settembre, non ho più parlato. Quando venne Wolfgang gli dissi: perché continui a venire? Io non ho badato a te per niente, affinché tu mi lasci in pace. Lui: tu sei stata senza misericordia. Io: che cosa vuoi? Lui: una santa messa. Io: dove sei sepolto? Lui: ad Augusta. Io: come hai fatto a trovarmi? Lui: basta che tu preghi. E disparve. Le sette figure sono ancora in uno stato molto triste. Solo che il loro gemere è intollerabile. Ho visto il cavaliere in chiesa alla sera. Poiché ero sola, mi avvicinai per chiedergli se aveva qualche cosa a che fare con la reliquia della Santa Croce. Lui non mi diede alcuna risposta e continuò intanto a pregare. Egli ha uno sguardo meravigliosamente bello ed è del tutto diverso dagli altri. 17 settembre. Una notte molto difficile, prima delle sette ombre, poi Wolfgang, poi venne qualche cosa, di cui non so rendermi ragione. Era come una nuvola che giaceva sul mio letto e si piegava sempre di più, una sensazione veramente spaventosa, un incubo nel peggior senso della parola. Si fece così fitto intorno a me, che non vedevo più la mia luce. Poi sentii come tormentum malit. Qualche cosa di simile. Nota. Probabilmente deve essere stato tormentum malitiae uguale a tormento oppure dolore a causa della cattiveria. Era l'ultima parola ma più lunga. Io sparsi molta acqua santa e finalmente divenne di nuovo tutto chiaro intorno a me. Però fu una cosa tanto paurosa e difficile. Da 14 giorni niente di nuovo. La nube che era intollerabile, si è trasformata in una figura. Sembra sia una donna, niente da temere perché è tranquilla e contenta, quando mi metto a pregare. Adesso sento di nuovo molto spesso la musica alla parete. 9 ottobre. Al castello in D, ho visto una vecchia signora, camminò parecchio accanto a me. 11 ottobre. Ho visto una cosa molto strana. Stavo in giardino ed ecco venirmi incontro una cosa molto bella, colori e luci che non posso esprimere, sentivo anche la musica. Quanto essa era bella agli occhi, così l'anima mia sentì qualche cosa mai accaduta. Posso farmi mille domande in tutti i sensi, non posso dire che cosa era, ma vorrei riviverla ancora. Fu come un attingere di forze, ed io ne ho tanto bisogno e ne sono tanto felice. 14 ottobre. Svegliata da un rumore fastidioso. Il mio letto era spinto di qua e di là, una sensazione terribile. Non potei vedere nulla. La cosa durò una mezz'ora poi tutto sparì. Secondo mio letto era inclinato. Più tardi venne una figura di donna. 17 ottobre. Rivissuta di nuovo quella bella cosa nella mia stanza, quindi non può provenire dalle luci dell'autunno. Mi trovavo come in una sfera di luce di una infinita bellezza di colori alla vista, e una indescrivibile gioia nell'anima, un salire, un qualche cosa di celestiale. Ciò che scrivo mi sembra tanto strano, eppure lo devo scrivere perché è cosa inspiegabile, ciò che mi è permesso di sentire. 19 ottobre. La figura di donna a lungo con me, ha un volto giovanile quale non vidi mai finora. Ho fatto un nuovo tentativo, ho recitato il Santo Rosario e le ho messo in mano una corona che avevo con me ed essa la tenne durante la preghiera. Quando se ne andò la corona era sul pavimento. Mi sembra che in lei cambi la statura. Quando viene lei è piccola. Quando se ne va è alta come la porta. È un tipo nuovo, per niente da temere, mi è molto cara. 20 ottobre. Di nuovo lo sbattere del letto, poi la donna. 21 ottobre. La donna parla, si chiama Eva, non si poté ricavare altro da lei. Ha mosso ancora a lungo le labbra ma non si poteva capire. 29 ottobre. Eva lungo qui. Lei domandai, perché vieni? Posso aiutarti? Eva, tu mi hai già aiutata. Io, in che modo? Non ho fatto proprio niente per te, Eva, io sono l'anima abbandonata per la quale tu. Non ho capito altro. Io, sei l'anima per la quale io ho pregato già quando ero piccola? Eva, sì. Io, perché non ti sei mostrata prima? Eva, non ero libera. Io, che cosa hai fatto di male? Allora lei mi ha sussurrato qualche cosa, impossibile capire, mi ha sorriso ed è sparita. 30 ottobre. Dopo il nostro anniversario vidi il nonno nel nostro oratorio. Aveva una espressione molto contenta e mi sorrideva. I suoi capelli bianchi splendevano. Purtroppo non potei parlare con lui, perché non ero sola. Ne fui comunque felicissima. Rivedere qualcuno che è caro tocca in modo particolare. Senza dubbio egli volle mostrarmi che dopo quella santa messa era liberato. 1 novembre. Ho visto tante cose. Troppe, gli 11, il cavaliere e i due uomini nel banco davanti all'altare della cripta. Nel giorno dei morti non ho visto niente. Dall'apparizione di Ermengarda in SCH, posso dedurre che lei è veramente esistita. Era la sorella della contessa von Geroldeck, nata a Montfort. È vissuta nel 1642, il suo castello era nelle vicinanze di Spremberg, e sepolta nel monastero di Wittich. Nota. È evidente si tratti del monastero delle Clarisse, che c'era una volta a Wittichen, nella Selva Nera, che era stato fondato da Santo Luitgarda von Wittichen. La Santa del Grembo di Maria, 1976, casa editrice cristiana, Stein am Rhein. 11 novembre. È sempre tutto inquieto intorno a me. Eva non viene più. Delle figure si muovono intorno a me con sospiri e qualche volta gridano. Non riesco ancora a riconoscerle.